c'era nessuno, a un metro sul, nell'aria di porta, di tacco, ed è uscito fuori. Boh. Questo ancora prima di fare il gol a Juve. Vabbè. Sicuramente a secondo tempo fa entrare Dybala, ha fatto una bella partita Dybala, contro il Genoa, segnato anche, una bella partita, quella l'ho vista, bella partita. Giannetto, riprendi? A me invece. Che Giannetto, non sei tu? No, avevo capito la loro roba, non riuscivo a capire cosa sta dicendo. No, perché stavo ascoltando anche un messaggio mentre parlavo, e quindi non è che sono riuscito a capire tutto. Uia. Come il braccio, era sempre inchinato facendo lui, era da molto che lo facevo di questi scuri, adesso sono tutto arrugginito qua, sempre fuori con lui. Ah, meraviglia, mamma mia, se sono a forza di Bustini anche io. Mi sono messo, quando ho fatto il cambio qua, insomma, delle basi, scrivania, eccetera, mi sono ammazzato. Ero tutta la mattina inchinato, ginocchia per terra, passando i cavi tutti nella zoccolatura, chiudendo, facendo, mettendo le canalette per non vedersi niente, guarda. Mi sono alzato, molto, e sono ancora così. Oggi un po' meglio, ma sono ancora dolori già. Mia moglie che non sta bene. Stamattina ha fatto la visita, gli hanno rifatto la fasciatura, invece che gli hanno un bel stretta. Ed è sempre a dolori. Abbia due tre di avè. Se non ho fatto la stretta basta andare, perché anche a me mi avevano fatto l'ingessato la foto stretta e una notte non ce l'ho fatta. Te l'avresti messo nell'occhio quel dito. Chissà chi è questo un mito. Se la passo. Sì, già, sì. Quindi se la piglia lui. Sì, chi è questo miserabile? Ma se non senti, a me non mi senti ad esempio. A Giulio non lo sento lo stesso, lo distorce. Perché te l'ho detto che è vicino a te, è in alto. Tu sei sotto, lui è sopra. Sì, è sicuramente dalle tue parti. Parte non arriva. Che schifo ragazzi, che schifo veramente, cazzo. Che gusto vi miglia, non ci ho compreso. Ma fa cosa? Cosa vuoi dimostrare? Andiamo alle scomposte che denunciamo. Così vanno a cercare. Io ve l'ho già detto. Basta, ci mettiamo tutti d'accordo. Mettiamo la firma e le facciamo fare un bel controllo. Non è possibile. Non è possibile che questo deficiente si alzi sempre con la luna di traverso. Chissà chi è questo deficiente imbecille. È qualcuno che non capisce che anche se ce l'ha con una persona, disturba tutta la ruota. Non è solo con una persona che se la prende, se la prende con tutti, perché non fa le pari a tutti. Veramente soprattutto quando ci sei tu, perché sa che non passa nessuno da te, hai capito qual è il problema? E allora eviterò di entrare io, per quello, se perché la mette più che ci sono io, evito di entrare io, però qui già faccio qualche cosa, non preoccupare. Assolutamente, se ti abbasseresti troppo, dico, lui sa che da te non passa nessuno, quindi la metti a me, perché tu non ascolti me. La metti ad un altro perché tu non ascolti, capito? No, se non attacchi non ce la fa passare. Anche io lo gioco, ci attaccate a te. Ma perché io devo attaccare per dare soddisfazione? Sto zitto. A parte che io non devo attaccare niente, che non ho lineare con queste radio. Ma non me ne fotti nulla, se non posso, ho pazienza. E proviamo sull'11 alfa, vediamo un po' se quel canale ce l'ha questa bestia. Ma rimani occhi, ma rimani qua Giulio, ma ne frega niente. Qua mi giro la sedia e passo dove voglio, non c'è problema. Già ce li ha le radio, non ti preoccupare, che è abbastanza attrezzato. Non destra va, ma già finna la radio Vomibur. Ancora non hai capito, cioè ti sto parlando chiaramente, ti sto dicendo che so chi sei, dove abiti, quanti anni hai, che radio usi, ancora non la vuoi smettere. Sto cercando di proteggerti e continui. Riprendi già. Gianni? Poi. Riprendete. Ho detto la campista. Avanti Giulio, avanti. Però se c'è per guardare la partita è finita. No, il primo tempo è finito, il secondo tempo ancora non è iniziato. Ma se c'è quell'imbecille, se non mi ascolti, cosa vuoi riprendere? E tu arrivi 9:30, cioè, se non ascolta a te non ascolta nessuno. È un casino. Anche quelli fortissimi me li copri. Che te l'ho detto, linea d'aria siete molto vicini, però io continuo a proteggerlo, perché non voglio pensare che lo faccia, capito, però so tranquillamente chi è, cosa usa, cosa non usa, dove abita, quanti anni ha, so tutto, ma continuo a proteggerlo, voglio vedere fino a dove arriva. Vieni qui, se non sai cosa fare, vai, gioca, fai altre cose, cazzo, ma io non lo gioco. Aspetta che rispondo al telefono, riprendilo Giulio. Ok, sperando che non continui questo deficiente. Vabbè, già, cosa ci vuoi fare, d'altronde. Le cose sono due, amico. O è lì vicinissimo a te, oppure... Dalla zona alta del Monte Rosello, perché diversamente questi segnali arrivano così, no? Per cui non penso che siano da altre parti. No, ma guarda, è possibile anche che sia con una macchina lì a San Francesco, è possibile che sia cioè, vicino a casa, nello Stallone Nuovo, in macchina, non si può dire nulla. Magari noi pensiamo che fosse che sia stazione fissa in macchina, che in giro c'è per partire, capito? Ma tanto fa la gatta all'altro che ci lascia lo zampino. Ah, ma se in macchina non mi arriverebbe con quel segnale qua, o già? Non mi arriverebbe così con quel segnale se fosse in macchina, assolutamente. Oh, caspita, se mi arriva col segnale di Claudio, ti puoi immaginare? Sicché dalla macchina come fai? È qualcuno a stazione fissa o è proprio nelle vicinissime, nelle vicinanze di casa tua, oppure un pochino più in alto, in zona buona, eccetera, eccetera. E arriva più forte di me, cioè. No, assolutamente, tu lo passi, no, non c'è problema. Però disturba, purtroppo è così, che cosa ci vuoi fare? Ma io per passare devo attaccare, non è che lo riuscio. L'ho visto, se mi si è arrivato a 9:30, mi si è arrivato, dunque, adesso sei 9:20. Ma mi sei arrivato a 9 più 30 poc'anzi, per cui l'ho visto che tu passavi tranquillamente. Ma passava anche Claudio qui da me, solo che il segnale è abbastanza forte, è un po' di disturbo, a perlomeno quando parlava Claudio c'era, ma a te tu lo superavi alla grande, no, non ce n'era per niente di importante quando parlavi tu, come se non ci fosse, capito? No, da me annettava tutti e due, tutto nulla, non si sentiva niente, sentiva solo la portante tu, completamente annettata. E caso mio era complice a Claudio, a comprimere a te, che avevi uno dei segnali più furti qua, anche Claudio aveva forte, 9:30, sempre, tu me lo compri. Appunto, te lo sto dicendo, è lì, dalle tue parti, o perlomeno può essere un po' più in alto, o sempre attrezzato bene anche di lineare, però è un segnale che mi può anche dire qualcosa, mi potrebbe dire qualcosa, che è un segnale che arriva da Monte Rosello Alto, poi naturalmente nessuno può... non lo può confermare, ci mancherebbe altro, però il segnale è quello, poi non lo so cosa vuoi che ti dica. Ripeto, tanto fa la carta all'arco che ci lascia lo zampino. Speriamo però che ce lo lasci veramente lo zampino e che non si faccia più sentire, perché sennò insomma è fastidioso. Va bene che il baracchino non ce l'ha da mangiare, però se non ce l'ha da mangiare questo non significa che ci debba essere un deficiente che mette la portante per gusto di disturbare gli altri che non lo stanno cercando, tra l'altro. Il baracchino è un passatempo che abbiamo, che ci piace usare tutte le sere per stare in compagnia, passare qualche ora. Ci deve essere certo lui a romperci le palle. Purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare se è nato handicappato mentale? La colpa di chi può essere? Solo sua. È di quella prostituta della moglie, della madre che l'ha partorito, tutto lì. Non può essere diversamente già. La colpa può essere solo sua e quella prostituta della madre che l'ha partorito. Sono rientrato, comunque vi confermo che come dico io, Ok? E come dico io, confermato al 200%, quindi non mi sono sbagliato. Sono andato in macchina a controllare. Il suo vicino di casa ha attaccato un'antenna lì a fondo scala, quindi tranquilli che come vi ho detto io. E la prossima che metti, se sei all'ascolto non ti proteggo più, Dico nome e cognome. E ti aggiungo anche che se continui ti mando la polizia postale. E se lo meriterebbe veramente. Una bella multa questo deficiente. Caspita, sembra che gli abbiano tolto gli occhi quando nessuno lo cerca, nessuno lo caga addirittura, perché non è possibile, perché non merita nemmeno di essere cagato, figurati un po'. Ma vai già. Ma io cosa ti ho detto la volta che ci siamo visti? All'80% me l'hanno detto, ma devo avere conferma, adesso me l'hanno confermato. Era una prova tecnica che stavano aspettando, lui manco lo sa, visto è, futtido. Non ti proteggo più, la prossima volta che metti la portante dico nome e cognome e ti ripeto, ribadisco e aggiungo che poi ti mando la postale. Così ti faccio abbassare tutto il macchino va in capo, perché nessuno ti sta cercando, stai solo disturbando le persone che vogliono farsi due chiacchiere. Dai, io continuo ad andare alla partita, che è appena iniziata, e vediamo un po' come finisce in questo secondo tempo. Speriamo bene qua. Dai, ci sentiamo eventualmente più tardi o domani, dai. Ok. A domani eventualmente. Ciao, vi saluto intanto. Ciao Claudio e ciao Gianni. Io continuo a vedere la partita. Ciao Giulio, buona visione, dai, avanti. Ciao Giù, comunque non mi hai detto niente, sto parlando con un corno. Si è chiuso. Col corno di bue sto parlando. Come lo so? Questo microfono, corno di bue lo chiama Giulio, capito? Perché lui dice sempre che io posso modulare anche con un corno di bue e esco bene lo stesso. Qua acceso ci deve essere ancora. La cornetta del telefono, quella che usava i carabinieri, te la ricordi? Quella con il microfono incorporato. Ce l'avevamo attaccata all'apparato al midrand della 27, usavamo quello, la cornetta. Sì, ce l'ho io la radio pure Marina con la microcornetta a PTT. Ciao Pippo, vieni a nonno, mi fisate ce ne hai, io mi metto le scarpe. Ce l'ho, come un vuoto F Marino, capito? Lui ha le coccole che mi ha fatto stamattina Skype, lui ha un finito di far coccole. Una cosa allucinante. Poi, l'altra mattina era già alle 4 di mattina, ho potuto portare in giù, non ce l'ha fatta manco a resistere, si caga se l'ha fatta la porta all'ingresso. No, Fisciughe. Adesso porto il mio, Già, ti saluto, che mi preparo e porto a Filippo, ok? Se ci sei, ci sentiamo dopo. Sì, ya vediamo, oggi cos'è, per cui mi sa che non venuta, oggi al televisore, mi pare che lo accendo dopo, Ya va bene. Adesso vediamo, adesso porto a lui, poi vediamo, ciao. Ciao, ci sentiamo. Marco, ci sei? Marco Corno, non so che se l'ascolta, io 11 furi. Siete qua? Siamo tutti qua, siamo tutti qui e tutti insieme, ora cantiamo Branco Balduccio. Ciao Antò, beh già, visto il video ho reso l'idea. Cioè la ricezione è più pulita col presidente. Oltre 1009 non eri perfetto, quindi è questione di ricevitore mio. Bravo, perché il 3009 riceve bene. Sì, vabbè, comunque, tutto qui. Infatti hai visto, no? Era buona, anche se avevo chiesto il passaggio liscio, no? Quello invece era con, già hai capito. Ok, e se no era 5, capito? Da 5 a poco meno di 7. Vai Antò. Gappa, un D, che sta cosa? Nel PMR. Lei è a PMR CVCV. Gappa. Mi. Un po' che non l'accendo. No, vabbè, un po', già non è che sia da un po'. Ah mio, quello che mi hanno sistemato va che una cannonata va. Quale? Quello te lo ricordi? Ah, Fabrizio te l'ha. Come? Fabrizio te l'ha messa a posto. Quella persona là. L'ha messa a posto, E va che una cannonata va. Me l'ha fatto subito. Quell'antenna, quella Turbo 2001, mi sono dimenticato sempre di dire, cioè, ma i fili staccati. Ma cosa aveva? I fili staccati dentro. E come mai? Non lo sapevo, ma l'avete aggiustata? Sì, l'ho aggiustata, non c'è problema, le soldate, no. Ma forse te l'ha tirata perché... praticamente non riuscivano a uscire, quindi pensavano fosse rotta, invece c'era tutta staccata, dove saltate ma. È una capolata, dai. Non lo sapevo, non è che. Vabbè, comunque, se l'hai aggiustata va bene. Mi ha saltato la bobina, così. Va bene. Si dice beh, no, il cavo, quello che c'è. No, quello che si avvita, quello che c'è quell'incrucchio che si avvita, che c'è il cavo saldato, era può capitare. Buonasera Claudio. Ciao carissimo, buonasera anche a todos. Ciao Fra, già hai prestato? Allora? No, io non tengo la mezz'oretta, certo, ma non fa. Il mio è abitato così. Dopo mi fa fare tutti i giri, sempre uguale, sempre, mi tira, se non lo porto come vuole lui, mi tira. Anche lui fa così, però poi alla fine mi porta al portone, cosa ci fa? Una volta mi porta al portone me ne salgo, una fottuta. Senti, dimmi che ha già finito. Dovrebbe esserci un posto a farli correre questi animali, anche loro non bisogna svagare. Ho scelto un attimo di bianco, vabbè. Loro sono abituati così, no, la mattina lo tengo di più, c'è il sole, mi piace, lo porto al giardinetto, giù all'edicola, qua da me lo mollo, ma la sera c'è troppa umidità, già a casa, la volta lo ammazzano i baruga, una volta ho fatto i bisogni, io a casa e tu barettacco. Ebbene tu, tutto bene? Tutto bene, e tu? Ehi Antò, a parte qualche dolorino, per il resto tutto bene, dai. Capa, non c'era, ieri non c'era nessuno, vabbè, e poi ho spento, ci siamo sentiti. Tutto bene, mi era cosa, procede tranquillamente. Piano piano. Quindi confermata? Che cosa, Claudio? Quella roba mi avevi detto a me, confermata, non stai ancora aspettando? No, c'è, tutto a posto. No, bisogna vedere se è macio o femmina. Sono contento Antò, dai, sono contento. Non importa, l'importante è che ci sia un buco d'arrivo. So sono contentissimo, Aldo, dai. Tantissimi, tantissimi auguri. Bravo. Vai già. Ehi, dai, vi saluto, vieni. Alle 8 spaccate sta pugnando. Lui è orologio. Dai, vado a portarlo e poi ci sentiamo dopo, dai. Ciao, ciao. Buona continuazione. Ehi, qua siamo, dai. Già siamo qua, ciao già, dopo. Vai a tu. Ciao già, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao Gianni. Ciao Marco, ma mi hai preso niente nuovo? Gianni, paesi bella. No, ciao lui, è il solito, no, già, è il solito. Dai, mi sto distraendo con WhatsApp, non riesco a fare né una cosa né l'altra, dai, quariti definitivo. Ciao Antonio, in bocca al lupo per la notizia buona. Ciao Luca e ciao Claudio, riprendi Claudio, quariti. Ciao Marcolino, dai, siamo qua se voi. Ma ascolta, ma Luca, ma quanti benivelli vi so? Tutti benivelli a sé di voi, tutti. Cos'è, c'è Antonio incinta a sé? Io no. Sara. Ah, vabbè, tu sei incinta. Sono faccio un pezzino, no, io no. Già va bene, dai, almeno siete in due. So che lì, Anto, fino a quando è piccolino va bene, poi siete stretti, eh. Lo so, ve l'ho già detto a Edo, cercamene una un pochettino più grande, dite che ne ha una in via Goggio, di Marazzurcie. Ne va via al panificio prima casa, una borsa, la già va Mauro Calvi lì vicino. Via. Capo, non mi viene adesso. Neanche a me. No, ho capito. Beato, sia da quando è piccolino, va bene. O piccolina. Già va bene. Metti la culla e va bene. Ma voi hanno come tracce mannita, credete sia alloggio. Lo so. Mi ha detto che cammini una più manna, gli ho detto cercamene una più grande, e mi ha detto mica voleva fare una tranca biscuria, mi da voi mi devo piazzare tutta la roba che c'avevo qua a me, non ti preoccupare, mi ha detto già comando io, già sali tu, mi ha detto, e poi da te, e se lo saliamo da fuori non ce n'è problema. Affa. La rimettiamo come era. Ah, già. Se tratti bene col padrone di casa hai sempre da guadagnarci, Arturo. Mai da perderci. Io praticamente quando questa gente si punta e fa con la prepotenza e con i casini, allora dice beh fa una cosa, sicuramente casa mia, comando io, allora fai che ci piace. Dobbiamo andare in tribunale, andiamo in tribunale, però tronte no, mi boh, capito? Invece se lo prendi alle buone, padrone di casa, io mi ricordo quando ero via Pascoli che il terrazzo non era condominiale ma era del padrone dell'ultimo piano, perché era un attico, non ha mai edificato, ma comunque è edificabile, quindi era suo. Te l'ho chiesto, come era un maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, tutto che balla, capito? Sì, ma dobbiamo vedere, saliamo assieme, lei mi dice dove io devo piazzare il palo per mettere l'antenna e io la piazzo, quello che mi dice lei io faccio, proprio lo prendevo, cazzo, con le pinze, capito? E me l'ha fatta piazzare l'antenna, no, sai, una me l'ha fatto piazzare. Via Pasqua l'avevo solo a 27, boh, non avevo, nonostante ero già l'elevatore, non avevo niente, avevo un'antenna piccolina VU e basta, non avevo antenne HF, non avevo niente, nulla. Bianco un attimino che c'ho una telefonata, cla. Cappa di Rosmetro. Luca, sali e scendi. Dai cazzo, vado a casa, ci sentiamo dopo se ci siete. Io arrivo verso le 8:30, ciao. Sì, adesso vi ho io, ciao. Ma come fai a salire a vederle tu le antenne? Claudio. Uia! Tu come fai a salire a vederle quando c'hai problemi? Tu con quel tetto non potevi salire su, no? Come fai? Avvicinati al microfono tu, come fai? Se ci sono problemi, come te le guardi con le antenne? Se avevi problemi nel salire, mi ricordo che era un po' pericoloso. Ma dai, qualche avanti? No, se c'è una sala condominiale, c'è una sala lassù. No, ce n'è pericolamento. Quando ero in via Pascoli. E allora ricordo male. No, e ne abbiamo smontato tutto intorno. Era una passeggiata lì, e alla porta. C'era la finestra per finestra e al tetto. Fusciano tutti così. Mi ricordo la mamma c'era l'abbaino, dovevo mettermi la scala, la sedia, saltare l'abbaino. E una volta sono rimasto anche incastrato, ma no, è facile. Terrazzo, non ce n'è tegole da me. Scappano, allora mi ricordavo della vecchia casa. No, da me è come da Gianni, apri la porta, c'è il terrazzo, sali, tranquillo, no, nessun problema. E poi la metà è la mia praticamente. Capito? Io ho le antenne nella mia parte, non nella parte degli altri, quindi no, non devo chiedere niente a nessuno. Ho le chiavi, salgo, scendo, e c'ero anche stamattina su a tirare i tiranti della mantova, perché adesso è molto alta, quindi ho aggiunto qualche tirante, non si sa mai. Cappa, se non ci salivamo col drone, io mi sono comprato il drone, è una figata per vedere le cose dall'alto. Allora, problemi aveva. Uno di qua di Antonio, il drone, controlliamo tutto a posto, facciamo le foto e siamo a cavallo. Chi ci è rimasto che ho ripreso adesso? Ah? Chi ci è rimasto che ho ripreso adesso? Nessuno. Luca è andato a prendere il tram, Antonio Bombo l'ha chiamato la signora. Io sono vai e vieni, da qua alla cucina, dalla cucina a qua. Ma cosa c'è partita stasera? Ehi. Sto guardando un straccio di partita. Cosa c'è? C'è Juventus Atalanta. Ma in chiaro la stanno dando o no? Cosa tu? Ecco, ma non puoi aumentare sta voce. In chiaro la stanno dando? No, su Sky. Ma per Sky ci vuole ancora la parabola, sì. O la parabola con internet, oppure deve avere il contratto con Sky, con DAZN. Cappa Roger, vabbè dai. Esce che mi stacco di nuovo, devo tenere conto, dare conto alla bambina, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, dai un bacio grande, da parte mia, da parte di Ilaria, da parte di Anna, ciao. Cappa, grazie, ricambiato. Oh, Clan, ci sei? Ehi, Anto. Ehi, Cappa, mi ha telefonato, mio cugino mi ha telefonato. Rispondere. Sto guardando la partita, 43esimo. E cosa hanno fatto? Ha segnato qualcuno? Aspetto. Eia. Dai, Bianco, che va a farmi la doccia, dai. Bianco, che vado a farmi la doccia. Ehi, Anto, ci sentiamo dopo, dai. Ciao. Eia, ciao. Ebbene, non c'è nessuno? Ehi, Clarbe. Ehi, come? E sono arrivato due minuti fa, là. È arrivata anche la pennina da 2 terabyte, cazzo. 2000 giga. Non va bene. Cazzo, andava. Ah, grande. Adesso vediamo, Antonio. Antonio Bombolino la vuole anche. Allora già va bene, già te ne ha tutti. Bene. Cazzo, 2000 giga, sono praticamente sono... Ti faccio un esempio, 4 hard disk da 500 giga, 4 conto, 2000 giga. Tora. Vediamo quanto con queste penne che ho in tasca. Ne ho una, a voi la verità di roba. Sapete, sto caricando adesso. Sto caricando 68 giga di roba tra basi, musica e perché ballacche. E allora già va bene, non c'è problema. Ascolta, sto usando il patch, il 2008, va bene? Sì, ho pagato a 25 euro, cla. Ehi, 25 euro, cazzo usci assai? Cazzo, 2000 giga sono cla, non sono a 32 giga, 2000 G, ma... Dove te la metto? 2000 giga, sì. Ma che canale siamo, nel 10? E allora? Ora, aspetta che metto, ecco, già va bene. No, mi sembrava che ero nel canale 11, poi siamo nel 10. Ma qua sì, che arrivi da una bolletta e non la stavo pagando l'acqua, ma devo pagare, non mi va arretrata. A parte, vabbè, ce n'è, ma qual è l'altra? L'hai già pagata fino a 2021, quella arretrata. C'erano delle bollette da pagare, cazzo, è arrivata una bolletta a 617 euro. Ah beh, ma non le devi pagare però. Domani diciamo un indicato 4, certo hanno rotto le balle, ma sono lonfi. mezzo. Sono furbi. Già lo so, sì, lui. Non lo dirà mai, ci ho lavorato, già lo gioco. Tanti volte mi chiamavano i amici. Cazzo, mi è arrivata, cazzo, l'avevo già pagata. Allora se l'hai pagata, fammi la fotocopia della bolletta pagata, già mi arrangio io. Andavo in ufficio, controllami questa cosa. Sì, ho mandato un'altra bolletta da pagare. Perché se non stai attento, te la mandano i due volti, capito? È facile, sembra di capizzare. Bisogna stare molto molto attenti a queste cose. Ma infatti adesso domani che diciamo, è voluto qui un tanto. Ma è voluto qui avere un tanto. Kappa. Ascolta, la modulazione è così, ha migliorato? No, è uguale, cla. Sempre uguale, allora vediamo, anche così è sempre rimasto uguale? Sì. Vabbè, cazzo, questo è il pace, ottimo lavoro ha fatto Luca, c'è un po' d'alternata, sento in ricezione, ma già non è fastidiosa, bisogna che controlli bene quello stabilizzatore che c'è all'interno. Va bene, dai, anche questo è perfettamente funzionante. Sì, a voglia. Non hai visto le radio nuove che ho comprato? No, che me la fate vedere? Aspetti, faccio le foto e te le mando. Guarda che belle lui. Queste sono le ultime due che ho comprato. No, questa qua è la radio, è gracchia, boh, è strana, è gracchiante. Questa? Gracchiante? Non ho regolato niente io. Fai la cazzo la lugola Trimuloni. Aspetta. Guarda a vedere se così è migliore. No, è uguale. Ma cosa senti perché? Gracchiare? È vibrata. È forte, però non è bella. È vibrata. Luca ha reso l'idea, ciao a tutti di nuovo, adesso sono alla TV, sono in passaggio. Sì, è come vibrata, come ha detto bene Luca, l'ugola Tremuloni. Tremuloni. L'ho provata io, cazzo, andava bene. Ora. Vediamo, così. Ora, sempre Tremuloni. Dai Luca, riprendi tu che io sto andando in camera, dai, saluti a tutti, Luca, vai. La sto guardando. Ma quando sto usando adesso, qua, delle due? Adesso sto usando il patch, quella praticamente che sopra c'è il baracchino, dai, c'è l'Elbex. A Tremuloni esci. Sì, diavolo, a Tremuloni, ma dimmi tu, come mai? È pure un bel lavoro, connettore nuovo, tutto nuovo. Grosso. Ma anche poco fa stavo uscendo a Tremuloni, o adesso? Anche poco fa. Ora. Sì, claro. Che strano, deve essere qualcosa nel trasformatore, dai. Ehi, lui, controllate voi, no? È nuova. Ah, già la controllo. Già l'avremo usci bene. Cosa? Cosa? Che non ho parlato? Ah, non hai parlato tu? Pure le travegole a Claudio. Cappa del Roggero. Che strano che a Tremulone. Ora. Ammazza, te ne vai. Ma non so se il microfono. Cazzo, ho dato quello meglio di tutti, il microfono. A Tremulone, così è. Caro, è forte, però non mi piace. Vabbè, aspetta che commuto l'altro. Sono belle, queste radio, sono vecchie, avranno i suoi anni, ma non mi piace. No, 09. Guarda, a me i piccoli mi piacciono. Tipo questo 4009, il Typhoon, così. Vedi un bel. Però queste radio vecchie così, non mi piace. Tu sei d'accordo, Marco? No vabbè, ognuno ha i suoi gusti, anch'io preferisco le veicolari ma solo per lo spazio, perché occupano poco spazio, io spazio qua non ne ho. Vai Claudio. Ria, va bene, allora lasciamo questo, quella la controlliamo domani, allora la giochiamo. Questa bene va. Ottima. Questa era una signora radio, va bene, quella là era da controllare. Troppo, o cosa cacchio è? Sì, è strano mi come effetto Claudio, tipo vibrato, ha detto bene cose, l'ugola, non lo so, come se si sovrapponesse un segnale. Cos'ha l'alimentatore interno a trasformatore per caso? O qua a 12 volt? No, questa è 12 volt, quella lì è trasformatore, adesso dobbiamo vedere se c'è qualcosa mollato, perché quando vibra così è trasformatore, però se si è mollato da vedere. Comunque controlliamo, e poi la radio esce comunque, a parte essere vibrata, quello è un problema risolvibile. Rumore alternato non è, la radio era buona. Sì, la radio usciva, non è che capibilità completa, sì, aveva questo leggero effetto tremante, vibrato. Eia. Vabbè, dai, correttore definitivo, riprendete voi, io mi attacco alla TV, spengo direttamente. Ciao, buona serata a tutti, ciao ciao. No, io vado a mangiare ancora, sono entrato in stanza a vedere chi c'era. Adesso vado a pappare, dai. Ci sentiamo alle prossime, Marco. Luca, vado a mangiare, se ci sei, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao a tutti, dai, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Ecco qua, sì, cado sentito, va bene questa. Va più che bene. Ma ci sei, Cla? Oh, lui ha detto che andava a mangiare, però potrebbe anche rispondere, ritornare. Ah, vabbè. Ha detto, nel caso, tu ti eri sentato, nel caso ci sentiamo dopo, ha detto. A te. Io sono alla TV, dai. Ciao, ciao, ciao. Io, ciao. E beh, già. Brinca, sata, muove, bucchi, bucchi. pulito. Sì, vediamo un po' se forse sentiamo qualcosa, aspetta. Allora. Ah. Un attimino, vediamo. Aspetta. Costa una cazzata, solo ci mette 3 mesi ad arrivare. K, come stavo sentendo una cosa. Sì, ho sentito quel pezzettino. Sto sentendo una cosa di mia sorella. Cosa mi stavi dicendo? Sì, ho detto che queste primine in Cina costano una cazzata. Sì, no. C'è problema. Adesso come si dice? Il sabato vengo, me la piglio e ti do quello che ti devo dare. Piglia. Sì, è bellina tu, bella, bella. Piccolina, tascabile. Poi qua hai qualche amico tuo, dici, me la metto un po' di musica, hai dal pennino, poi hai iniziato, quella riempirla. Lo so, ma io non ne do, non la do a tutti, anche da voi, soprattutto con certi tipi di musica. Perché se permetti, qualche serata me la pozzo io, ma ce l'ho io la musica. Non andarla per farti mettere un po' di musica nuova. Sì. Questa cosa è un hard disk, questa cosa. Ma quell'hard disk usi in mano. Io ho hard disk da 1 tera anche. Questa è 2 tera. Ma la sorte è tutto ci sta dentro. Dice un greggio mio. Bisognerebbe sceglierle così, Poi tanto lo vedi tu. E le vedi. Te lo sai usare il computer, sì. Sì. Karaoke c'è proprio le cose scritte, ci sono, vero? Le MP3 sono, sì. Me le apri, ma sono in MP3 o c'è anche la musica che parte, com'è? Così sono, no? Dove ci sono le parole, i testi. Allora, karaoke. Il karaoke devi. Questi qua sono in MP3. Ti potresti scaricare anche il Van Basco, mi sa che c'è qualcosa di Van Basco anche, come si dice, e poi ti devi scaricare Karaoke 5, con quello lo puoi fare. Cavolo, ma se devo cantare un brano come faccio? Ci vuole Karaoke 5. Ah. E beh, come si fa? Poi si fa, potresti scaricare Karaoke 5, apri la cosa che devi cantare e te lo apri in automatico, devi andare sulla base, apri con Karaoke 5. E beh, quanto si paga per scaricare quello, come funziona? No, questo Karaoke 5 è gratuito perché non c'è licenza, poi se lo vuoi pagare tu lo devi pagare. Io non so come scaricarlo, non ne ho mai fatto la verità. Ce l'hai internet? Lo devo collegare al cellulare. Lo scarichi anche tu. Vabbè, questi piccoli usi un casino, lento il tuo, è veloce. Già va, ma non è che sia chissà cosa, no? Infatti il prossimo che mi compro sarà il PC, cazzo, perché ne voglio uno un pochettino più migliore. Uno, guarda, ti consiglio, un i7 di processore, no? Per fare karaoke. Sì, vabbè, è ottimo, ma anche un i5 va bene. Quando lo ricompra, come lo sa bene. Però ti consiglio di comprartelo nuovo, tanto perché è usato, lascia il tempo che trova. E possibilmente che abbia l'SSD. Capito, perché quello Mac carico, diciamo l'hard disk è una cagata. Poi c'è quello SSD, è più fluido, più veloce e tutto. Quando lo devi comprare me lo fa sapere. Ok, te lo faccio sapere. Perché vorremmo un computer cazzo che funzioni, a quanto si può trovare uno? Se vuoi un PC buono lo paghi anche 600 euro. Un PC che vada bene, ma non che non che sia, chissà cosa. Ma te l'ho detto, se spendi bene, capito? Se spendi bene. Lo so, ma ridinare sono pochi. Lo so, tu quanto vorresti spendere? Non lo so, seconda mano cosa si trova, ma buono però. Vedi, mi stai parlando qua, secondo me non lo trovi 100 euro, sognatelo. Se non dico 100 euro, ma manco 200. 200, ma cosa andate, fai caro che ce lo trovi. Non è che faccio di fare chissà cosa. E bisogna che me lo compri. Brittella! Ma sono venuto in televisione, siamo tiburro. Venuta! C'è un film che stavo seguendo, il mistero dell'acqua, buio del lago. Ce lo vedremo prima. E come c'è tizio, si sono fatti tutti a muoio. Tutti molti ciò. Tutti annegati. Cambio! Okay. Aspetta, domani diciamo a mano a vedere su Castile la cucina, stai zitta. Sono fuori di capo, Michi. Sono fuori di testa. Sì, ciao, ma ti rispondo di subito, devi fare il numero verde, ti tengono in attesa, devi digitare, praticamente ci fa vedere la giura. E ci sa gusto, non me ne frega niente. Conviene andare via Principessa Yolanda, lì, al balcone, c'è l'ufficio reclami e ti spiegano tutto. Allora, una volta è capitato che sono andato una volta, forse 10 volte ci sono andato, 8-10 volte. Perché uno diceva una cosa e uno diceva un'altra. Tanto mettetevi d'accordo, me. Guardate che siete colleghi. E non è che uno lei dice una cosa, quello là dice un'altra, quello là dice un'altra ancora. Comunque non male della forma, una volta signora c'aveva capelli oggiosi, e mi ha detto a me, cos'è che mi ha detto? Questa che le consumate, ma vi l'ha fatto una cosa del genere. Ho detto scusi signora, ma spero che lei stia scherzando. Allora, innanzitutto questa cosa è una cosa privata, c'è una cosa tra me e lei, noi che ci vogliamo sentire tutti. Lei è una grandissima maleducata. Ma mia chi merita? Oh Zosi, ma di a chi fu giù a vederla? E se non erro è anche di Alghero. Quella si chiama Rosa di nome. Se la vado un po', come te la vedo, ma tu che schifo i capelli che Rosa Garone, ehi, te la conosco, basta un pochettino sciottella. È stata sempre così, ha lavorato in un ufficio con me lì a Coso, a Berenoso, quando c'avevo Santa Maria la Palma, Fettiglia, quella zona lì, era in ufficio lì, e ha avuto sempre, mi pare che sia embriata con lei, va. Stai alla manovra, ma gli dai da un'anidata, Eva. Rognosa, raga, per carità. E vabbè, comunque. C'è una cosa, deve essere privata. Perché prima mi ha detto una cosa, una cifra, poi mi ha detto un'altra. E si mette d'accordo, mi dice. Si mette in pace col cervello. Perché mi sa che non ce l'ha in pace, non è d'accordo, mi sa. Cazzo, ma me la prendi nitamente incazzata, guacca, te lo giuro, mi. Mi stavo troppo incazzato il giorno, troppo. Poca preparazione hanno, te lo dico perché ci ho vissuto in quell'ambiente, troppa poca preparazione. Tutti quelli che sono allo sportello non hanno mai fatto un corso di aggiornamento, non hanno mai fatto niente, lascia perdere. A volte chiamavano, io ho fatto anche, ho lavorato anche alle utenze nella zona di Castelsardo, prima di passare in depurazione, ed era una lotta continua. Mi davano gli allacci, mi davano le cose, non i gumbri, Dio, un accidenti. Bisticciavo tutti i santi giorni, anche con questa, con Rosa. Poi le dice, ma scusa, ma chi l'ha stampato questo ordine di servizio di allaccio. Io, ma me lo spieghi, cioè spiegamelo tu per telefono che cosa devo fare, a chi non che non ne comprendo nulla. Ci sono mille croci, cosa sono queste croci? Il punto di riferimento, quale punto di riferimento? Ma le cose ci fa vedere, ma le cose ci fa vedere, a me mi deve dare il nome dell'utenza, la via e l'indirizzo, un po' basta, poi mi arrangio io, ma qual è il numero di riferimento? C'era una cosa vergognosa, non ne capivo un accidente. Ah, per carità. Per carità, guarda. Vabbè, là. Stai dicendo che lì non sono. Cioè, come se io lavoro con te, no? Abbiamo lo stesso. La stessa mansione, no? Faccio un esempio. Cioè, tu devi sapere quello che sono io devo sapere quello che sei. Cioè, la cosa facci. È uguale, poi ce l'hai il computer tu, ce l'ho io, né più né meno, no, che devi dire una cosa, che devi dire un'altra, mi ha detto, ascolti, io sono venuto qua, non sono venuto a fare casino, sono venuto per sapere cosa devo fare, tutto qua, ma poi mi ha detto che lei si difendeva abbastanza bene, ah, gli metteva a pisciare un gabbone. Oh, è strano che sia diventata così, ho conosciuto che era una bravissima ragazza, è brutta perché è brutta, ma quando eravamo assieme ad Arenoso lì nella strada per Fertilia, era una brava ragazza, molto più attenta, vabbè che era contrattista, non era di ruolo, la grande è passata di ruolo, si è montato il gabbo, non ho capito, vabbè, comunque, ti conviene andare se dai retta a me e dici che vuoi parlare col responsabile dell'utenza, dovrebbe essere, non me lo ricordo, Paolo, non me lo ricordo, comunque tu dici voglio parlare col responsabile dell'utenza, perché questa è una cosa che io voglio capire, voglio sapere, e lei non me lo sa spiegare, e Gando Pavetti, con il responsabile dell'utenza, glielo dici, questa signora a me non mi ha fatto capire niente, non sa spiegare niente. No, vabbè, no, questo è successo qualche anno fa, non adesso, per farti capire chi era. Vabbè, poi ragazza, oddio, che te la fa mia mamma, papà carità, meglio un debito, guarda, meglio un debito, fidati, davanti anche tu, ripeto. Ma che carità, chissà care che c'ha caglia, fa mezzamente bianco di culo, va. È una grappa, è così, è una brava donna, non è una ragazza, avrà una cinquantina d'anni, non di più, ma pare che mangia 70. Non c'è Briato con leva? Sì, c'è una riga Briato con leva. conosco una vita praticamente. Ma vita, te lo sto dicendo, lei prima lavorava all'Alghero, anzi ad Arenoso, poi l'hanno portata all'Alghero e poi l'hanno mandata a Sassari, capite? Quindi la conosco a vita, è stata sempre così, ha sempre briato con l'Eva. Mamma mia, che brutta cosa, mamma mia. Tanto ma non si lamenta negli impiegati che vai fianco, mamma mia, guarda. Il profumo c'è buono. Allora, se tu tramiti ne sono profumata, se dopo li passi la lingua e lo braccio esce la cioccolata. Bella via. È sotto per un ricotto, beh. Ah, non è che era il ricotto a mustia. Allora, la beretta, beh, di birfugas. Mamma mia, come sto? Io, mamma mia. Purtroppo esiste anche questa gente. Cosa si può fare? Sassarisai. Oh, Grecia. Ah, ecco, fa cosa. Lo scaldamandru, va, chissà. Scaldamandru. Chissà, si lava con Giulivelle. Vabbè, ma per una donna è brutto, capito? Un uomo magari è diverso, puzza di sudore, eccetera, ma una donna è brutto. Una brutta, soprattutto perché sei a contatto col pubblico, sei in un ufficio pubblico, devi stare alla presenza del pubblico, devi presentare in una certa maniera. Capito? Quindi capelli sempre ben fatti, belli corti, luci. Lei è brutta come la minchia, perché è brutta. Però se a parte sei brutta, non ti tieni, cazzo, allora sei proprio un sorico. Se fare Maria Sofia fare. Ma no, magari anche pure vita in giro passassare che c'ha. No, ma no, non è giusto anche cavolo, cioè, nel rispetto dei tuoi colleghi anche, cazzo, intendi il cazzo. Stavo profumo lo bianco dell'omogenio, non andava bene, no? No, non è giusto, cioè non va bene. Non va bene, no? Ci mancherebbe altro. Non va bene, no? Ti ripeto, perché sei a contatto col pubblico. Io avevo un collega che praticamente mi sostituiva il fine settimana, capito? Cioè faceva i miei riposi o di sabato o di domenica. Di sabato quando prendevo la mia macchina, perché ce l'avevo io intestata a me, quindi la macchina la dovevo costruire io, chiaramente gliela lasciavo a sorso con le chiavi in ufficio e lui ne usufruiva, giustamente. Se la usava di sabato, quando io rientravo lunedì già andava bene, ma quando la usava la domenica, il lunedì c'era ancora la puzza di piedi. Ma che schifo! Una cosa allucinante, una cosa allucinante. Da prendere la macchina e bruciare il volante, lasciare i finestrini aperti anche un quarto d'ora, 20 minuti prima di partire. A chi non si budia il capo. Cazzo, no, no, non è giusto, ma non gliel'hai mai detto, scusa, ma cioè, o te ne vergognavi? Io me ne vergognavo, io ho fatto anche la segnalazione, perché sono responsabile dei mezzi di quel periodo. Ho fatto la segnalazione al mio dirigente, capito? Eppure un giorno glielo ho detto che eravamo in ufficio e c'era una riunione, siccome anche lui era un mezzo responsabile, ero più in alto io, lui praticamente era un mezzo responsabile, quindi partecipava alle riunioni che noi facevamo settimanalmente, e glielo ho detto. Ho detto, non ti offendere, ti voglio dire una cosa, o ti giambi i cassetti o ti compareggi un altro bacio di volte, perché ogni volta che io prendo la macchina e la prendi tu non si può stare dentro. Ma vabbè, ti sto dicendo che non si può stare dentro, non l'ha presa a male, no? Non l'ha presa a male. Non lo so, qui la tua, lo vuoi un consiglio? Nelle scarpe antifortunistiche mettiti la polverina, ok, quando ti cambi le scarpe, e non ti giambare le volte in macchina. No, metto i piedi fuori. Certo, ma se ci sono gli spogliatori, perché non vanno negli spogliatori? Poi ho capito perché non si cambiava negli spogliatori, perché non lo facevano cambiare gli altri colleghi, a chi era via Gugio. Allora ci giambava pure, cazzo, la macchina mia di giambi. Cazzo, che schifo, cra, mamma mia. È la cosa più brutta che possa capitare qua. No, no, non va bene. Cioè, la doccia, ricordo, non ti rifai. No, non andava così. E io come ti rientro, mi doccia, com'è? A pranzo, doccia. Ma no, non mi piace a me, cioè, che schifo anche con i miei colleghi, mamma mia. No, ma lui evidentemente già si lava, perché ci sono le docce, l'ho visto farsi la doccia, cosa, era sempre bello pulito, ordinato. Fiago di piedi è una malattia, tu hai capito? Il fiago di piedi è una malattia. Quindi se tu sai che c'è quella malattia, come chi suda le ascelle, è una malattia, non è che non si lava o che appuzza le ascelle, è una malattia. E il sudore è acre, hai capito? È una malattia tu. Quindi sai che c'è questo problema, usa qualche medicina, qualcosa. Ma appunto, ci sono le cure, ci sono, per togliere questa roba qua, Ma io già gliel'ho detto, sì. Di andare in farmacia e comprarsi la polverina per mettere nelle scarpe. E infatti l'aveva fatto, e puzza non ce n'era più, capito? Fuggi. Poi scarpe antifortunistiche, anche per uno che non ha mai avuto problemi, ti ricrea problemi, sono talmente puzzinose a stare 8 ore sempre con le stesse scarpe che alla fine ti rovinano i piedi. A me l'ho fatto diventare piedi piatto, io non ho mai sofferto di tallonite, da quando sono andato in pensione, mi fanno male sempre i talloni, capito? Sempre i talloni. No, io non ho problemi, le uso tutti i giorni, però io mi lavo a sé mattina e sera, però non ho problemi, fino adesso non, se non mi ricrea più là, ho sempre avuto